Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo! Allora, quando sono le 22:05 minuti va in onda Radio Possum. Una trasmissione un po' così di entusiasmo. Pieni di vita, pieni di voglia di vivere. Anche di gioventù, direi, che non fa male. Ecco, ecco. Detto da te poi, quindi. Anche se ti ero piuttosto rinnovato con questo nuovo look. Soprattutto dopo le immersioni nell'altra stanza. Va bene, allora questa sera appunto. Di che parliamo stasera? Di che, questa è la domanda, la faccio io. Io dico di che parliamo e voi rispondete. Posso rispondere io. Parliamo di tante cose che non hanno, diciamo, un filo conduttore, però sono tutte quante notizie e approfondimenti che volevamo portarvi all'attenzione. Vabbè, io traduco e dico che non ci siamo preparati la puntata. Cioè, ce l'eravamo preparati, diciamo, però è saltata, esatto, quella originale. Diciamo, quindi un contrattempo, e però con la nostra grandissima ben nota professionalità siamo in grado comunque di offrire al pubblico un servizio in appuntamento. Al pubblico? Però siamo quanti sono? 10 persone. Ciao mamma. No, ai nostri cari ascoltatori, ascoltatrici, nonché molti ascoltatori affezionati, direi, che anche ci contattano scrivendoci, telefonandoci. Io, diciamo, sono il lato positivo di questa presentazione. Va bene, è ok, ne abbiamo detto abbastanza. Il nostro pessimismo cosmico. Mettiamo una canzone e cominciamo. Va bene. As long as people think that animals don't feel, they have to feel that people don't think. E allora di nuovo in linea, e anzi di nuovo in onda, e non so perché in linea, parliamo linea. Come prima cosa parliamo di una informazione che vengono da Milano, dal coordinamento Fermare Green Hill, e che riguardano la tra virgolette solita questione degli animali del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica dell'Università degli Studi di Milano. Ricorderete tutti, li abbiamo avuti anche ospiti in trasmissione qualche settimana fa, che gli attivisti del coordinamento Fermare Green Hill 2 mesi fa hanno occupato lo stabulario di questo dipartimento dell'Università di Milano, e dopo alcuni giorni di occupazione che ha sollevato l'interesse e l'attenzione di tutti i mass media, sono riusciti a portare via dalle gabbie dei vivisettori un coniglio e più di 400 roditori. Hanno prodotto e diffuso un'ampia e vasta documentazione, filmati, foto sia del livello delle condizioni di vita degli animali all'interno dei laboratori, sia anche delle condizioni nettamente ovviamente migliorate degli animali una volta liberati da queste strutture, e hanno trovato casa. Sono stati in gran parte quasi tutti adottati. Tra l'altro, no, è interessante che dopo quell'occupazione e liberazione di animali, il mondo, così chiamiamolo così, tra virgolette, della ricerca sia un po' sollevato, sia un po' diffusa questa truce usanza di quei buffoni di protesta, di organizzare flash mob, manifestazioni per strada e via dicendo, in cui i grandi ricercatori dell'università mandano avanti i loro studenti a manifestare per strada a favore della ricerca. E sì, tra l'altro, vabbè, scusa se ti interrompo. C'è anche da dire appunto che una cosa che ho notato guardando le fotografie di questi cosi, e che spesso poi molti di questi ricercatori poi sono anche persone più o meno di sinistra, comunque sono poi anche persone che fanno lotte, diciamo, anche a livello universitario appunto sui fondi alla ricerca, quindi ecco, anche quando ci sono questo tipo di campagne sui soldi, finanziamenti alla ricerca, la ricerca che non ha soldi, insomma ci stanno due facce della stessa medaglia, sebbene comunque siano magari anche lavoratori sfruttati eccetera, o comunque c'è un discorso sulla cultura, il sapere che non viene diffuso, c'è anche un discorso pure su a chi serve questo sapere, per chi è questa ricerca, come diciamo sulla neutralità della non neutralità della ricerca, e sul fatto appunto su quello che costa, quello che c'è dietro, e anche appunto una riflessione che forse dovrebbero fare tanti pure compagni che si occupano di queste cose, compagni eccetera, quando portano avanti questo tipo di lotte su cioè dove va a parare questa lotta, per chi è di giovamento, per chi non è di giovamento, insomma un discorso complicato, ecco, però lo volevo dire perché sulle foto ho visto anche diciamo scritte di persone appartenenti magari a collettivi pure universitari che si rivendicavano e che si rivendicano queste cose, insomma, quindi sì, che si rivendicano poi il paradigma dominante, perché ricordiamoci che con false motivazioni scientifiche stanno affermando comunque un sistema di ricerca che basato sull'animale, che è a vantaggio di determinati interessi economici e non è assolutamente a vantaggio di nessun altro, di nessun tipo di ricerca, e men che mai degli animali. Ricordiamo, sempre per ricordare i mesi passati, che questi attivisti, come vogliamo chiamare, non so, mi sembra veramente una bestemmia di attivisti di protesta, di protesta, questi loro punto di vista, loro sono attivisti, diciamo, ecco, appunto. Vabbè, chiamiamoli burattini delle lobby farmaceutiche, della ricerca, forse il termine. Però diciamo che pure cioè possiamo dire così facendoci un discorso, però diciamo che queste magari sono persone che non fanno questo tipo di ragionamento e che portano avanti magari altri discorsi contro il sistema, contro il lobby eccetera, senza poi accorgersi di questa lobby di cui fanno parte. Però è un discorso anche generale che si può fare per un po' per tanti lavori. Guarda, per molti lavori, diciamo. Secondo me in realtà molta di questa gente io poi non li conosco, per fortuna non li conosco personalmente uno per uno, e quindi non posso, magari qualcuno di loro è veramente animato dalla buona fede, però l'impressione che ho della maggior parte di loro è che appunto i discorsi che facevi di prima di queste persone che magari sono impegnate politicamente e tutto quanto, magari è un'etichetta molto a buon mercato, sì, perché sì, poi sì. Si rendono non soltanto spettatori ma direi proprio complici della forse peggior forma di fascismo su questo pianeta, no? Il fascismo degli esseri umani nei confronti degli animali, per cui tutti questi discorsi insomma è un po' una loro costruzione. Io su questo discorso sono d'accordo, però dico, cioè, non so quanto poi questo discorso tutto sommato vale per molti lavori, non soltanto per quello del vivisettore, in cui magari così vede più esplicitamente. Poi cioè, tutti i discorsi, va bene, sono d'accordo sul fatto comunque si stanno difendendo un sistema, quindi comunque pure tu lavoratore che ti difendi, cioè, questo sistema poi è un lavoro particolare perché comunque porta avanti anche interessi personali, di fama, di successo, in cui sei disposto a tutto, anche appunto a passare sulla pelle degli altri per questo, quindi sicuramente però vedi non per fare un esempio che ci riguarda da vicino come Radio Possum, no? Che noi 2 settimane fa abbiamo prodotto un testo contro la vivisezione all'università e la vivisezione a scopo militare. Questi stessi ricercatori che oggi parlano di salvare vite umane, della ricerca che serve a salvare vite umane, sono gli stessi ricercatori, o se comunque non sono gli stessi ricercatori fanno parte dello stesso sistema e quindi ne sono responsabili, diciamo, dello stesso sistema di ricerca intendo, e non dello stesso sistema sociale, quindi un ambito molto specifico, e dello stesso sistema di ricerca che poi appunto usa gli animali anche per testare armi, per testare sostanze a scopo bellico, per testare strumenti di intercettazione e di controllo, comunque in qualche modo di controllo e via dicendo. Quindi dove va tutto questo discorso sulla ricerca con gli animali finalizzata a salvare vite umane? In realtà è, come dire, è appunto un'etichetta, poi però io personalmente non, tra l'altro anche vedendo il dibattito in televisione tra un attivista di protesta e un attivista del coordinamento Fermare Green Hill, a me è parso abbastanza evidente che nel momento in cui alla persona che rappresentava protesta si ponevano dei dubbi, delle domande molto tecniche, molto, molto precise, lei non dava una risposta magari ingenua, però comunque in buona fede, no? Lei svicolava. A me personalmente ha dato l'impressione che lei sapesse benissimo che buona parte delle tesi che sosteneva erano tesi di comodo, cioè in cui non credeva neanche lei. Ma infatti volevo ricordare prima che avevano poi ci siamo persi, che c'era stato anche un diniego da parte di questi dalla strada criminale, ma anche di questi ricercatori di protest, di fare un dibattito pubblico proprio all'università con gli attivisti di Fermare Green Hill o comunque chi volesse partecipare, ricercatori, antivisizionisti eccetera, proprio perché come dici tu, messi alle strette in determinati confronti anche pubblici, è più difficile sviare, è molto più facile farlo in una trasmissione televisiva che comunque ha un tempo molto limitato e che comunque è molto facilmente giostrabile, ecco, per sintetizzare. Continuiamo con la notizia, abbiamo finito le nostre riflessioni. Infatti è vero, perché poi ci siamo. No, vabbè, però invece comunque mi sembrava giusto appunto, ecco, per parlare di questa cosa, pure per ribadire come l'antispecismo tutto sommato, comunque la liberazione animale, sia considerato sempre come un problema minore anche in molti ambienti della sinistra, anche la sinistra diciamo non istituzionale, anche movimenti libertari, anarchici eccetera, spesso viene considerato come un problema minore, per cui ecco appunto si trovano delle situazioni che dal mio punto di vista sono paradossali, di persone magari che appunto lottano per altre cose però poi si ritrovano a difendere un contesto come quello della vivisezione, che è del tutto, cioè del tutto indifendibile appunto da un punto di vista, non dico rivoluzionario, ma anche da un punto di vista di critica minima alla società. Ecco. Vabbè, questo può essere esteso poi a tutto quanto le lotte contro lo sfruttamento animale, che comunque non è recepito, non viene considerato da tanti purtroppo che si battono per altre cause e che non considerano, non riescono, non so perché, a collegare la sopraffazione e lo sfruttamento sugli animali con altre sopraffazioni e sfruttamenti di altri esseri viventi. quindi è un discorso facilmente estendibile e che abbiamo anche ribadito più volte anche in queste trasmissioni, ma anche in interventi pubblici che abbiamo fatto, iniziative eccetera, quindi continuiamo a ribadire. Vabbè dai, finisci il discorso, ti abbiamo interrotto così. Ok, no, meglio, bello, bello. E no, praticamente succede che dopo due mesi in cui c'è stata grandissima attenzione sui fatti di Milano, va ricordato che due mesi fa gli attivisti del coordinamento di Green Hill, Fermare Green Hill, hanno raggiunto, tra virgolette, un accordo con i vivisettori, un accordo comunque finalizzato ovviamente a salvare degli animali, e cioè avevano accettato di sospendere l'occupazione dietro il permesso, tra virgolette, diciamo, comunque dietro la possibilità di portare via più animali che potevano in quel momento, con l'accordo comunque che tutti gli altri animali in quel momento prigionieri nel dipartimento sarebbero stati successivamente consegnati agli attivisti e quindi in qualche modo liberati. Questo perché da una parte l'università si, e qui leggo testualmente dal sito Fermare Green Hill, l'università si voleva togliere dall'impiccio di un'immagine, di un'attenzione che chiaramente destava molto, molto scalpore, e anche perché gli attivisti hanno diffuso foto, filmati delle condizioni di vita veramente infime di questi animali all'interno di piccole scatole, all'interno di gabbie, nel caso dei roditori dentro delle scatole, nel caso dei conigli dentro delle gabbie, e poi anche perché loro gli stessi visitatori hanno detto che una volta che questi gli attivisti erano entrati nello stabulario avevano contaminato, diciamo, lo stabulario, e quindi come tali gli animali non potevano essere più usati negli esperimenti e quindi erano quindi inutili. Il problema è che l'università sta nicchiando nel consegnare i restanti, gli animali ancora prigionieri. Si tratta di un numero imprecisato di topi e di circa 17 conigli. E quindi il coordinamento Green Hill ha continuato a diffondere informazioni, tra l'altro video e soprattutto informazioni sull'unico coniglio che hanno portato via, che è stato nominato Alfio Fragilo, che è uscito dal laboratorio, leggo dal sito Fermare Green Hill, uscito dal laboratorio ricoperto di parassiti, di lividi e di segni di punture, e ha avuto problemi dovuti agli esperimenti che su di lui erano compiuti, una crisi di astinenza durata 18 ore che lo portava a correre, ringhiare, buttarsi sul cibo, mordere tutto ciò che trovava, perché tra i tanti esperimenti che all'interno di questo stabulario si facevano c'erano anche esperimenti sulle dipendenze da alcol, tabacco e via dicendo. E quindi il coordinamento sta adesso promuovendo una nuova, chiamiamola, campagna affinché tutti gli animali ancora presenti nello stabulario del Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica dell'Università degli Studi di Milano siano immediatamente rilasciati. Dobbiamo tirarli fuori dalla follia e dallo squallore di quel posto, dobbiamo fare in modo che anche loro possano godere dell'estate e di quel poco che resta loro da vivere finalmente in libertà. Sul sito Fermare di Green Hill ci sono tutta una serie di informazioni, c'è un lungo articolo che io ho cercato di riassumere nel modo più esaustivo possibile, ma è chiaramente sempre meglio leggerlo, per liberare questi animali che in alcuni casi sono addirittura da 5 anni prigionieri all'interno del stabulario. Si può sottoscrivere la petizione con la quale si manderà un messaggio al Ministero, al Dipartimento di Farmacologia, al CNR, al Rettore dell'Università degli Studi di Milano. Si può telefonare per insistere e per ottenere l'affidamento degli animali. Chiaramente quando si telefona non bisogna mai fare minacce né utilizzare offese, ma bisogna semplicemente mostrare il lato intelligente e sensibile del nostro movimento, scrivere mail in cui si spiega il nostro punto di vista e ovviamente partecipare anche a presidi e tavoli informativi che il coordinamento sta organizzando. Tutto questo lo trovate sul sito fermaregreenhill.net. Ci sono tra l'altro una serie di appuntamenti già in programma, alcuni tavoli informativi davanti all'Università Statale di Milano, uno in programma il 1° luglio, cioè oggi, alle 10, vabbè, uno è stato in programma oggi, un altro è in programma il 3 luglio sempre alle 10 davanti all'Università Statale di Milano. Poi nel fine settimana gli attivisti sono tornati comunque sotto lo stabulario con un presidio e niente, quindi insomma la campagna di pressione continua e speriamo che porterà a un esito positivo. Noi comunque vi aggiorneremo e soprattutto nelle prossime settimane poi cercheremo anche nuovamente di ricontattare gli attivisti del coordinamento che abbiamo diverse volte avuto ospiti nella nostra trasmissione. Va bene, dai, mettiamo una canzone. Questo è un artista che da un po' di tempo ho conosciuto e lo apprezzo molto, l'abbiamo messo solo un'altra volta, quindi lo posso mettere. Si chiama, questa canzone è fatta da Promo e Spider Dogs, Mamma's Gata e Svenne Banan. È una lingua nordica. Tiden är förbi, snart är det för sent. Livet det går fort, det är svårt att hinna med. Men vi kanske kommer ses någon juldag i Lund. Kanske ölen kommer ta oss på det djupa en stund. Kanske fortfarande kommer försvinna i din blick. Drömma om den framtid som vi aldrig fick. Och vi kanske skriker över musiken. Och trots alla strafanserna i livet kommer fram till effektivismen. Hur på lätten full. Och vi kanske lämnar spår hem parallellt genom snön. Som vet de blåser bort efter ett halvt andetag. Och du säger det var uppenbart att det aldrig var du och jag. Så förlåt om jag bara säger tjena när vi ses. Slipper kännas vid den svidande förr i tid. Kanske vår historia är in på låt. Vacker att titta på men inga som inte står. Jag gick i ett kvarter idag. Som en gång var min hela värld. Oh, allting var ju enklare då. Oh, men ingenting kan bli vad det var. Nej. Igår gick jag på mammas gata. Vissa dagar så kan jag sakna tryggheten från gamla dagar. Men det finns inget som kan vara långt tillbaka. Igår gick jag på mammas gata. Vissa dagar så kan jag sakna tryggheten från gamla dagar. Men det finns inget som kan vara långt tillbaka. Ibland vill jag återvända. Men det finns ett litet dilemma. Det känns som skorna börjar klämma. Och jag får växa, jag måste lämna. Hey! Staden känns för liten. Du och jag börjar om det känns för tidigt. Eller för sent, hur det än blir det. Jag gick i ett kvarter igår. Som en gång var min hela värld. Allting var ju enklare då. Men ingenting kan bli vad det var. Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan. Taxi fan, kappen bak, kompan jag för dag, kaulag. Fucking fucking freedom show, kalla folk för King Show Rose. Leka, leka, leka stekan, bakfull redan fredag. Malis, kanadiaholmarna, ligger vissa barn i barnhavet. En riktig stil igår med silikon, bor i samma sal som du vill ifrån. Kvinnor med sandet, tog lager bränna, fixa mat, vad fan har vi hemma? Ska poppa tofflor. Barnen är som tänkt tv-soffor. Ordning och reda. Låg in på fredag. Kunskap på Wikipedia. Tonårs graviditet. Ångesten ingen vet. Min är stuck och barn är syran. Vill att vara kvar i fyllan. Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan. Dansa höj, visa på Carola. Man är kvitt, permanent av året. Återblick med högsvar i klassen. Avundsjuka på överklassen. Fia och lilla kungafamiljen. Spyr ut av dagen efter pillret. Spaller och het i veckan. Grannen är helt och bläckan. Nätbåken, kalla båken. Jo, man är inte bara ha tråkigt. Finland, Sverige, Bon Jovi, Kavets. Living on a prayer, no true racket. Lagga bilar på och mitt. Gällivare i hängs, fan vad fint. Fyller bort på McDonalds, var hem och blir rånad. En gång i månaden. Den är helt förstört och snäll. Stoltheten ur en ölbutel. En stor slant av hårt kött. Hur länge har det pågått? Inte det går natt och sommar. Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan, Svenne Banan. Get down like this. dettagli dopo questa versione acusticona di appunto Mamma Sgada e di Sven Banon. Sven Banon, fighissimo. Chissà che vorrà dire, però vabbè, però è figa la canzone oggettivamente, dai. Sì. Sven Banon. Vabbè, ritorniamo al lato serio adesso che prendiamo i remi in barca e ritorniamo sempre sul discorso della sperimentazione. In questo caso la notizia viene dagli USA ed è di 2 giorni fa. 310 scimpanzé dopo 30 anni di ricerche effettuate su di loro per malattie gravi quali AIDS, quali epatite, quindi animali malati di qualsiasi malattia, verranno mandati in pensione verranno destinati alle riserve tra il Canada e l'America. Questa notizia sicuramente è una buona notizia, ma quello che ci lascia perplesso sono le motivazioni di questa decisione. Innanzitutto soltanto gli esemplari che sono stati sottoposti a sperimentazioni in laboratori pubblici verranno mandati in pensione. E poi la motivazione è perché questi animali così simili all'uomo non possono essere sottoposti a così atroci sofferenze. Quindi questa cosa ci lascia perplessi non perché non pensiamo che appunto la sperimentazione la sperimentazione sugli scimpanzé debba essere fatta, ma perché questo discorso deve essere assolutamente esteso a qualsiasi essere vivente, non soltanto legato alla somiglianza o meno all'Homo sapiens sapiens. Infatti la sensibilità dei legislatori per tutelare i primati o le grandi scimmie è una sensibilità comunque legata sempre a una visione di tipo antropocentrica che comunque tutela l'uomo o chi è a lui vicino, ma non tutela assolutamente le altre specie viventi, senza considerare tutti quanti i discorsi appunto scientifici che ci possiamo fare ma che non ci faremo in questo momento. Un'altra notizia sempre legata comunque ai primati è una notizia di una ribellione di gorilla, una notizia che leggiamo dal sito Nemesi Animali e si intitola "Quando i gorilla si liberano da soli". Leggo la notizia che è molto carina tutta perché tanto è anche breve. Pochi giorni dopo che una trappola posta da un bracconiere ucciso un gorilla di montagna, altri giovani gorilla si sono coalizzati per trovare e distruggere alcune trappole nella loro foresta in Ruanda. Questa incredibile azione è accaduta martedì 25 giugno di fronte agli scienziati naturalisti che lavorano presso il centro Karisoke in Ruanda, gestito dal Diane Fossey Gorilla Fund, organizzazione fondata nel 1978 dalla ricercatrice americana Diane Fossey, uccisa poi da bracconiere nel 1985. L'organizzazione si occupa di proteggere i gorilla e il loro habitat naturale nelle foreste in Ruanda e in Congo. Per catturare antilopi e altri animali, i cacciatori mettono migliaia di trappole fatte di corde e rami nel parco nazionale dei Vulacani in Ruanda, dove vivono i gorilla di montagna. A volte queste trappole catturano i primati e mentre gli adulti sono abbastanza forti per liberarsi, i giovani sono meno fortunati. La scorsa settimana un piccolo di gorilla chiamato Nico è stato trovato intrappolato, ma era troppo tardi. Si era slogata la spalla in un tentativo di fuga e la gamba era andata in cancrena a causa della profonda ferita causata dalla corda. A quanto pare i cacciatori non sono interessati ai gorilla e anche le piccole scimmie vengono lasciate morire nelle trappole. Ogni giorno i dipendenti del centro Karisoke battono la foresta per cercare le trappole e smantellarle. Martedì John Giambage ha individuato una trappola molto vicina al clan di gorilla spero che si dica così. Si è diretto verso la trappola per disattivarla, ma un gorilla adulto, detto Silver Black, per il colore argento della schiena, ha grugnito per dire all'uomo di non avvicinarsi. All'improvviso un giovane maschio, Ruena, e una giovane femmina, Ducore, entrambi di 4 anni, sono corsi verso la trappola. Ruena è saltato sul ramo piegato rompendolo, mentre Ducore ha tolto il cappio. La coppia ha poi subito avvistato un'altra trappola che l'uomo non aveva visto e si è precipitata lì. Si è aggiunto un terzo gorilla, un adolescente di nome Tetero, e i tre hanno distrutto anche quella trappola. Sebbene questa sia stata la prima volta in cui conservazionisti che lavorano al programma sui gorilla abbiano visto una cosa del genere, la velocità con cui i gorilla hanno agito fa pensare che questa non sia la prima volta. Si pensa sempre che i scimpanzé siano i primati più abili nell'usare strumenti e più ingegnosi, ma quando c'è bisogno anche i gorilla dimostrano intelligenza e capacità pratiche. Questi animali sono a forte rischio di estinzione e potrebbero sparire tra 5 a 10 anni se il bracconaggio e distruzione del loro habitat non si fermano. In qualche modo per Roa stanno imparando a rispondere da soli a questa minaccia, e noi speriamo bene che tutti gli animali facciano lo stesso per tutte le trappole possibili. Vabbè, ci sono pure situazioni e situazioni. Vabbè, comunque era una speranza. Vabbè, buttiamola là, mettiamo una canzone, va, che è meglio. Queste sono Lissy Dance Floor Disaster con Kill the Winner. Allora, dopo questa canzone, siamo rimasti sempre nei paesi nordici come artisti e ritorniamo in diretta con la prossima notizia. Sì, da Ravenna, da Ravenna. Sì, in realtà da Ravenna, perché vi volevamo segnalare un'investigazione realizzata da un gruppo di cui che abbiamo ospitato anche qua in diretta. Essere Animale è un gruppo che si muove per lo più in Emilia Romagna e che tra l'altro ha fatto con Nemesi Animale un'inchiesta anche sull'industria della pelliccia e gli allevamenti di visoni in Italia. Questa volta la loro indagine riguarda lo Zoo Safari di Ravenna, che è una struttura che, già come dice il nome, rinchiude ed espone al pubblico centinaia di animali selvatici ed esotici per l'intrattenimento. Questo è un dossier a cui hanno contribuito numerosi esperti, biologi, psicologi ed etologi, che hanno fornito la loro consulenza e grazie alla quale oggi possiamo mostrare il vero volto di questa struttura, inaugurata nel maggio del 2012. Il sito è www.safariravennadossier.it, dove potete trovare filmati, foto, e il parere anche degli esperti sulle condizioni di vita di questi animali, tigri, bufali, pappagalli, uccelli rapaci e via dicendo. Un volto, continuiamo a leggere dal sito di esseranimali.org, un volto che mascherato da presunti obiettivi didattici e scientifici esibisce oltre 450 animali in un contesto per loro innaturale, tra le automobili dei visitatori e la confusione che regna in questo luogo. Ciò che abbiamo documentato rappresenta quanto di più lontano una struttura che detiene animali in cattività dovrebbe perseguire. Tra le cose che vale la pena segnalare ci sono spettacoli con pappagalli e uccelli rapaci, addetti dello zoo che invitano i visitatori a porgere cibo agli animali, animali inseriti all'interno di un'area con una vegetazione completamente assente e priva di ripari indispensabili per potersi nascondere dallo sguardo indiscreto del pubblico. Questi esemplari provengono da circhi o da altri giardini zoologici e ora sono detenuti solamente per un tornaconto economico dalla società Alfa 3000, proprietaria dello zoo safari di Ravenna, ma strettamente collegata ai circhi e ad altre strutture che detengono animali per fini commerciali. Una cosa interessante è sapere che cos'è Alfa 3000. Prendiamo dal sito safariravennadossier.it. Alfa 3000 è una società a responsabilità limitata con sede a Roma che esercita attività di allestimento, acquisto, vendita e noleggio di giardini zoologici, zoo safari e circhi equestri. Dall'esame della documentazione ufficiale emerge che sia l'amministratore unico sia il procuratore ad acta della società Alfa 3000 hanno investito in due società, Impresa Circense di Casartelli e Company, società SAS, che non so che cosa vuol dire, ed Eros di Albertino Casartelli SAS. Queste due società svolgono attività circense principalmente con l'insegna del Circo Medrano, noto per essere uno dei circhi con il più alto numero di animali nelle sue esibizioni. Alfa 3000 inoltre possiede lo zoo safari di Fasano in provincia di Brindisi in Puglia, il primo in Italia e uno tra i più grandi d'Europa per numero di specie presenti. A Fasano sono rinchiusi circa 1700 esemplari, leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi, leopardi, orsi, rinoceronti, ippopotami, uccelli esotici, grandi rapaci e primati come gibboni, babbuini e gli unici gorilla presenti in cattività nel territorio italiano. Lo zoo safari di Fasano sorge negli anni 70 e riprende come a Ravenna un modello di giardino zoologico in cui gli animali sono rinchiusi in recinti e mostrati al pubblico attraverso un percorso in automobile o in trenino. All'interno vi è anche un rettilario, un acquario e uno dei pochi delfinari presenti in Italia, dove i delfini vengono addestrati per esibizioni al pubblico. Come vedete, quindi, insomma, la società proprietaria dello zoo safari di Ravenna è questa Alfa 3000, che insomma è un vero e proprio colosso in questo settore specifico dello sfruttamento animale, cioè zoo e giardini zoologici. La storia dello zoo safari di Ravenna è molto lunga, perché inizialmente il primo progetto, diciamo, che nasce nel 2000, e l'amministrazione comunale di Ravenna, a noi ben nota tra l'altro perché i vari sindaci che si sono succeduti a Ravenna sono stati sempre molto benevoli anche con la CMC, di cui noi abbiamo parlato in altre puntate, no? Un altro colosso che sfrutta e distrugge la terra, responsabile tra l'altro anche della devastazione in Val di Susa. E le varie amministrazioni comunali non hanno mai sostanzialmente ostacolato questo tentativo, fino a quando nel 2012 purtroppo è nato questo zoo safari. Negli anni precedenti c'era stato anche un coordinamento che aveva lottato contro la costruzione di questo campo di concentramento. Purtroppo lo zoo safari è stato fatto e adesso però c'è questo dossier di Esseri Animali che vi invitiamo a visitare, presso il sito www.safariravennadossier.it. Comunque, ecco, al margine un discorso analogo a quello di prima sul fatto che molto spesso in nome di appunto di posti di lavoro per tante persone si giustificano anche degli scempi e delle cose assurde, come può essere appunto il mega zoo safari di Ravenna, la TAV, eccetera eccetera, e molto spesso le amministrazioni locali, dando voce proprio ai cittadini che se le difendono queste cose in nome del fatto che la pagnotta a casa la portano delle persone che ci lavorano in queste aziende, facendo comunque dei lavori sicuramente sottopagati eccetera, però almeno portano il pane a casa, in nome di questo comunque si giustificano tante cose. Quindi, al margine anche del discorso che facevamo prima su chi è poi che difende cosa e perché la difende, secondo me anche questo può essere uno spunto di riflessione, ecco, che pone tanti interrogativi. No, ma certo, ma tant'è vero che uno degli attacchi più delle difese d'ufficio che si fanno alle varie aziende che sfruttano animali, mattatoi, allevamenti, zoo, laboratori, è sempre quella che queste aziende comunque danno lavoro a delle persone, no? Quindi già un po' di tempo fa erano uscite i vari piagnistei dei sindacati sui poveri lavoratori dell'allevamento Green Hill, che con il sequestro e l'adozione dei cani erano rimasti senza lavoro. Seguendo questo ragionamento si potrebbe dire che anche l'SS che lavoravano ad Auschwitz comunque portavano, dovevano mantenere una famiglia, e quindi insomma. Sì, ma poi un altro discorso che c'è pure qui anche a livello di lotta sul fatto che poi vieni accusato e diciamo allora ma tu vuoi la chiusura di quella fabbrica, non ti importa niente dei lavoratori, non appoggi la lotta dei lavoratori che sono, o magari lavoratori che lottano perché sono sottopagati in delle fabbriche come può essere appunto la Cremonini o posti del o la Granarolo o posti così. Non è che non mi difendo il lavoratore, ma cioè, è chiaro che capisco pure la situazione di cioè, la situazione di tutti noi comunque, di chi c'ha bisogno di portare la pagnotta a casa, però bisogna vedere pure quello che c'è dietro, che cosa stai giustificando. Comunque tu ti stai pure a difendere un lavoro, tutto sommato non lo so, ecco appunto il discorso. Bisogna riconoscere il sistema d'oppressione appunto del lavoratore come dell'animale, tendenzialmente farne un filo unico è difficile. Vabbè, però è un po' quello che su questo non lo so, nel senso che i lavoratori che lavorano in queste strutture non si sentono minimamente oppressi al pari degli animali, non gli interessa assolutamente l'oppressione degli animali, tant'è che noi sono loro stessi artefici, per cui io non so sinceramente. No, ma infatti io dico un discorso molto più scusa. No, appunto io dico che va riconosciuta appunto l'oppressione di se stessi e riconosciuto oppressioni simili come quello dell'animale, ecco, bisognerebbe volgere lo sguardo oltre rispetto alla propria situazione personale individuale e appunto. Ah sì, ok, certo, sì, avevo capito male, scusa. Sì, sì, ma il problema è che chiaramente finché gli animali vengono ritenuti inferiori all'essere umano, la vita di tutti gli animali del mondo non varrà mai lo stipendio di un singolo operaio, di un mattatoio. Però è un discorso più generale che vale anche per le persone, in cui comunque appunto molte volte sei costretto a lottare anche contro altri lavoratori, altre insomma persone che potrebbero essere tue compagni nella lotta per delle vediamo cose. Vediamo la Val di Susa, per vediamo la Val di Susa, sì, ma pure cioè, senso, mille esempi, ecco. Vabbè, lì il Taranto comunque, in cui c'è stato proprio uno scontro interno nella fabbrica tra chi cioè, insomma chi non ce la faceva più a lavorare in certe condizioni disumane, per chi lavora e per chi vive intorno all'Ilva e per tutti noi, e chi invece comunque c'è anche un discorso appunto di ricattabilità. Vabbè, insomma è una questione complicata questa sera. Una serata di grandi temi, visto che non avevo niente di cui parlare. Però vabbè, io comunque credo che una riflessione ci dovrebbe essere appunto anche negli ambiti di chi compagno o compagna si occupa di queste cose, si occupa di appunto sostenere lotte di anche lavoratori comunque certe rivolte, però bisogna vedere anche di chi sono, dove vanno a parare queste lotte, proprio come dove vanno a parare le ricerche, dove vanno a parare anche le aziende che ci stanno dietro, se la lotta è una lotta contro l'azienda o è una lotta comunque che si difende, non lo so, è complicato, ecco. Sì, e poi soprattutto anche capire che, almeno per come la vedo io, noi abbiamo un po' questa cultura un po' chi ha tra virgolette sindacalista, no? Secondo cui il lavoro non va toccato, il lavoro è il bene supremo dell'essere umano, ma se il lavoro di una persona, per quanto possa essere umile, per quanto possa essere sottopagato, si basa sullo sfruttamento, la sofferenza, la morte, la prigionia di altri esseri viventi, siano esseri umani o esseri animali, e questo discorso va dai sorveglianti dei campi di cotone negli stati schiavisti degli Stati Uniti nell'Ottocento, a appunto l'ha detto l'operaio di un allevamento, di un mattatoio. Per me questo lavoro chiaramente non ha nessuna dignità morale, insomma, e nessuna dignità politica, soprattutto al di là della moralità, insomma. No, poi al di là di questo comunque dobbiamo sempre ricordarci che lavoriamo perché ne siamo costretti, però ecco, non è un bisogno umano, anzi è un'imposizione che ci costa molto in termini di tempo, di libertà, di oppressione, eccetera eccetera. Comunque la società capitalista e in generale la società industriale occidentale eccetera si regge sul consumo e quindi sul lavoro delle persone. Comunque dobbiamo ricordarci che è una forma di schiavitù per noi e per gli altri, e in qualche modo ci deve porre qualche riflessione anche questo. Poi è chiaro che comunque il posto dal punto di vista individuale è un discorso che non ha senso, perché è un discorso che va fatto tutti insieme, un discorso collettivo appunto, che poi è soltanto un approccio rivoluzionario, però sì, però certo conta anche la dimensione individuale. Secondo me ci sono persone che hanno lavorato in un mattatoio e dopo un mese sono scappate, sono diventate vegan e sono oggi attivisti per la liberazione animale, e nel senso esistono queste persone, non è una cosa però da ci sono altri lavori, sono che comunque che sono con molto divertimento nei mattatoi. Sì, sì, vabbè, quello sì, sì, quelli c'è un discorso proprio di supremazia dell'uomo sull'animale a priori, comunque, che vediamo anche per chi non lavora, insomma, anche uno che sta a casa si gode la sua bistecca oppure si ammazza la gallina, eccetera. Vabbè. Che facciamo? Canzone, vai. X True Nature X, One Species. Tondanti in Londra alle 22:53, sfumiamo questa bellissima canzone solo perché i tempi stringono e passiamo alla cronaca locale. Leggiamo una notizia dal sito Repubblica Roma, repubblica.it, sul tema della speculazione e della cementificazione che abbiamo già affrontato altre volte. Villa Blanc, red dei vandali nel cantiere della Luis. Vetri rotti, fotocopiatrici e plotter pieni di olio, scrivanie ribaltate, bottiglie di alcolici sparse, tubi sfasciati, scritti e simboli anarchici. E questo è lo scenario che si sono trovati davanti gli operai lunedì mattina, riaprendo il quartiere di Villa Blanc punk dopo la pausa nel weekend, nonostante le ronde della vigilanza. Da dicembre l'edificio di Fin'Ottocento, che dà su via Nomentana, la Lewis ha iniziato l'operazione di restauro per trasformare quella che una volta era la residenza del barone Alberto Blanc nella Business School dell'Ateneo. Un progetto da sempre osteggiato da residenti e dai comitati di quartiere che si battono per rendere fruibile il parco cittadini. Intorno alla villa, acquistata nel 1997 l'università di Confindustria per 6,3 miliardi di vecchie lire, infatti ci sono 5 ettari di vegetazione tra palme, alberi e foreste di bambù. Mentre nelle piazzole sterrate da qualche mese sono stati posizionati container che fungono da uffici, sale riunioni e mensa per gli operai. Ed è lì che in almeno due diversi raid i vandali sono entrati in azione, si sono aperti un varco nelle recinzioni di ferro, hanno distrutto porte e finestre, hanno spaccato fax, mobili e persino l'impianto idrico. Sulla parete di un container, accanto a una accerchiata e alle stelle a 5 punte, è comparsa la scritta "Siamo protettori della natura, non satanisti", mentre sul piazzale ci sono i resti di un principio di incendio. Sull'accoglito ora stanno indagando i carabinieri, anche perché i danni si aggirano intorno a 6.000-70.000 euro. Vabbè, 6.000-70.000 euro, non se, vabbè. I lavori di restauro. Ma non ho capito, da 6.000 a 70.000 c'è una bella differenza. È proprio quello il punto. 6.070.000 Comunque 6.070 euro. Ah, 6.070 euro. Vabbè, andiamo molto. I lavori di restauro affidati da un bando di gara di imprese prestigiose costeranno alla Lewis tra i 20 e i 25 milioni di euro e andranno avanti per altri 2 anni, o almeno fino alla sentenza del TAR, che dovrà deliberare il suo ricorso presentato lo scorso anno da 7 cittadini e da Italia Nostra contro la decisione del Comune di rilasciare all'Ateneo di Confindustria l'autorizzazione di restauro conservativo. Comunque, giusto per dire, era 60-70 mila euro. 60-70 mila. Vabbè, comunque non ci interessa adesso questa cosa, abbiamo letto la notizia, andiamo. Ok. Leggetelo, sì, se volete vedere la cifra precisa andate sul sito roma.repubblica.it, va bene? Se no, consultate un commercialista, un perito dell'assicurazione. Vabbè, allora passiamo agli appuntamenti, non che ce ne siano molti, però segnaliamo una iniziativa alla Las Vegas House, l'abbiamo sentiti anche 2 settimane fa sulle colline bolognese, in particolare a Monte San Pietro in provincia di Bologna, il 19 e 20 luglio, 2 giorni concerti per i prigionieri anarchici inguaiati con la legge, inizio dei concerti alle ore 17 e vabbè, non vi vengo a leggere quelli che sono tutti quanti i gruppi che suoneranno, perché sono tantissimi, ma li potete trovare sul sito www.informazione.info e niente, comunque, ecco. No, leggi qualcosa. Leggo qualcosa. La repressione è... Se no uno pensa che sono Annilla Pizzi, che ne so, Massimo Ranieri. Vabbè, allora leggo 2 righe di comunicato e poi leggo anche qualche gruppo così a mio, quelli che decido io. La repressione è per alcuni una realtà quotidiana. Confrontarsi con il pugno di ferro delle istituzioni, con il carcere, gli allontanamenti coatti dalle proprie città, le aule di tribunale, è un'eventualità per chiunque decida di fare di questo mondo e delle sue logiche di sfruttamento un nemico. Chi è colpito dalla repressione non può essere lasciato a sé. Un festival punk hardcore è il nostro modo, fra i tanti, che si possono scegliere di portare solidarietà, di farlo urlando con rabbia e gioia. 19 luglio, vi leggo i gruppi. Nemesis, Vegan Straight Edge, Bologna Hardcore, La Prospettiva, Cesena Hardcore, We Sink Hardcore da Parma, L'Amantide, Black Ned Hardcore Cremona, Payback, Roma Hardcore Legends, Mosso Malta, Vegan Straight Edge from Argentina. 20 luglio, più TBA, che non so che vuol dire, che vuol dire? Non lo sappiamo. Tumulto, Hardcore Punk da Forlì, Niet, Fast Power Violence from Everywhere, ITU Alive, Fastcore da Padova, My Own Voice, Milano Hardcore e poi il Lud da Rovereto Hardcore. Ok? Ho letto tutto. Campeggio libero, porta la distro, posto all'aperto, rispetta il posto, cibo vegan, non nazi, non fa, no infami, and fuck macho man bullshit attitude. Ok. Ho letto tutto, va bene. Leggo anche le indicazioni stradali per arrivarci. Ci arriva pure il pullman, comunque, per chi non c'è la macchina da Bologna. Va bene, io ho fatto la mia parte. È su informazione, l'ho detto, è su informazione.info. Quindi adesso mettiamo una canzone e poi soprattutto dopo abbiamo il momento chiave della serata, perché abbiamo un non lo dire. Io dico soltanto che abbiamo un grandissimo personaggio, purtroppo non in diretta, però leggeremo delle sue dichiarazioni. Io dico che abbiamo un, come si dice, un comeback, un vecchio amico. Dai, musica. Avrete intuito dalla sigla, siamo finalmente di nuovo in diretta con una giovanardata di quelle cosmiche, insomma, tan tan tan. Era, ormai era un po' di tempo che non le diciamo più, o perché erano diciamo inopportune, o perché si stava zitto Giovanardi, invece no, questa volta ha detto è tornato. E allora, parlando di gravi problemi sociali come uomini e donne, vi vengo a leggere che la nota trasmissione di Maria De Filippi, vi vengo a leggere che cosa ha detto Giovanardi. Allora, durante un'intervista si è espresso in merito alle indiscrezioni che parlano di una nuova versione homosex del celebre, tanto amato e tanto odiato programma di Maria De Filippi, che sarebbe Uomini e Donne il programma. Carlo Giovanardi avrebbe infatti contestato la possibile messa in onda di Uomini e Donne Homosex, dichiarando quanto segue: constato che le lobby gay sono molto potenti e evidentemente muovono miliardi. Se dovesse andare in onda Uomini e Donne Gay, impedirei ai miei nipoti di 4 e 5 anni di guardare il programma, ma non perché Uomini e Donne è una merda, ma perché sono gay. Come gli spiegherei che lì ci sono due papà? Come glielo spiegheresti, Giovanna? Che te devo dire? Ok, adesso mi... L'ex sottosegretario avrebbe precisato che il problema vero e proprio non sarebbe la singola trasmissione, ma la trasformazione culturale che passa attraverso la scatola dei sogni catatonica che ci racconta di come Ugo corteggia Ugo o Maria corteggia Maria, fino ad arrivare al punto che se uno dice che la normalità è Ugo che corteggia Maria rischia recriminazioni. E quindi è quanto... Grazie Giovanardi. Giovanardi prende le parti della lobby etero che si sente così minacciata. Si sente minacciata E va bene, ha concluso dicendo che una trasmissione pomeridiana realizzata per un pubblico di teenager e di over 50 dovrebbe avere uno scopo educativo e culturale. Quello che infatti è uomini e donne, ricordiamo. Cioè, una trasmissione pomeridiana dove senza la storia gay sembra non esserci la storia, è un segno del conformismo dei tempi, e che questo sia diventato il simbolo dell'attenzione del tema dei diritti è una cosa veramente singolare. Già. E allora, caro Giovanardi, come sempre ti diamo ragione, e anche noi vogliamo combattere questa crociata contro le lobby gay che muovono miliardi e che fanno parte del conformismo culturale dei nostri tempi. E come dire, lunga vita uomini e donne in versione originale. Giovanardi Momè, Giovanardi Momè. Vabbè. E ritorniamo al momento serio della trasmissione. No, finito. È la conclusione questa. Diciamo i contatti? Sì. Allora, se volete scriverci, scriveteci a lagazzaladra@inventati.org. Se volete invece consultare il nostro blog, riascoltare le trasmissioni, e radiopossum.noblogs.org. Come si è capito, mi stavo facendo riccamente i cazzi miei, quindi mi avete preso un po'. Se invece volete utilizzare le care e vecchie poste italiane, l'indirizzo della radio è Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma. Naturalmente, visto che la radio non campa d'aria, vi ricordiamo quali sono gli estremi per sottoscrivere alla radio, per dare un contributo, perché senza Radio Onda Rossa neanche questa trasmissione va naturalmente in onda. Potete sottoscrivere al conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma, oppure potete andare sul sito www.ondarossa.info per sottoscrivere in digitale. Di lato c'è scritto sottoscrivi e ci dovete cliccare sopra. No, stavo indicando un ipotetico sito, non la porta. Stavo indicando una persona fuori dalla porta. Va bene, allora, come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Siano essi umani o non. Ciao!